In primo piano. Benvenuto Gianfranco Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno, oggi ci tocca fare gli straordinari. Ti tocca fare la staffetta. Quindi sì, comincio sì. Con la rassegna stampa. Andiamo a 24 mattino e ritorni con 9 in punto. Dove affronterete? Dove affronteremo il tema delle pensioni, uno dei temi di fondo di queste giornate, perché si parla di riforme da fare, si parla di risparmi che il paese, l'Italia, deve compiere per risanare i propri conti pubblici. Uno dei grossi capitoli di spesa è quello proprio delle pensioni. Si parla sempre di necessaria riforma delle pensioni, riforme che peraltro si sono fatte in passato, si sono fatte anche nell'ultima manovra. Faremo il punto sulle riforme fatte e sulle riforme possibili, appunto a 9 in punto, in una giornata che rischia di essere peraltro ancora molto movimentata, speriamo non pesantemente movimentata come quella di ieri, sul fronte dei mercati finanziari. Chiaro, sarà un tema seguitissimo quello della previdenza. In primo piano sui giornali, a parte Borse a picco, titolo che vedo si ripete su diverse testate? Beh, sui giornali in primo piano indubbiamente le borse, direi che le prime pagine sono quasi interamente occupate dal crollo dei mercati di ieri, un crollo che ha avuto degli effetti clamorosi a Milano, dove è stato perso più del 5%, tra l'altro c'è stato anche un problema tecnico che ha tenuto in sospeso le rilevazioni delle contrattazioni nell'ultima parte della giornata, e solo nella prima serata si è saputo il dato ufficiale del meno 5%, che è un dato tra i più pesanti della storia della borsa milanese, ma tutte le borse internazionali hanno chiuso male: New York al 4,8%, Francoforte al 3,4%, Londra al 3,4%, come è in un'immagine sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Direi che i titoli dei quotidiani si ripetono un po' tutti: borse a picco dall'Europa a Wall Street, il Sole 24 Ore, shock sulle borse mondiali, Milano crolla, è il titolo del Corriere della Sera, borse rosse è il titolo del Manifesto, e qui con qualche elemento anche un po' ironico sul fatto che le borse votano un po' contro il governo, e direi tutti i commenti sono anche uniti da uno stesso motivo: agire subito è per esempio il titolo dell'Avvenire con Giancarlo Galli, la fiamma dei mercati e l'urgenza di agire di Fabrizio Forché, e anche altri editoriali ripetono questo elemento sul fatto che bisogna fare presto, prima che sia tardi, per esempio, è il titolo del Fondo di Ezio Mauro. Ti seguiremo Gianfranco, ci ritroviamo al termine della rassegna stampa. Grazie Irene, buon lavoro anche a te per i tuoi approfondimenti. Ritorniamo appunto allora sui temi delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Sole 24 Ore, avevo detto borse a picco dall'Europa a Wall Street, crolla Piazza Affari, maglia nera nell'Unione Europea, lo spread BTP Bund vola fino a sfiorare quota 400. C'è quindi una crisi internazionale, una crisi globale, siamo nel mondo della globalità, ma in questo sistema globale l'Italia purtroppo spicca per debolezza perché di fatto la borsa italiana è quella che perde di più, di fatto i titoli di Stato sono quelli che sono soggetti a uno spread, a un differenziale più alto verso gli altri titoli degli altri paesi, quindi c'è un caso Italia all'interno della situazione internazionale. Le fiamme dei mercati e l'urgenza di agire è il titolo del commento sul Sole 24 Ore di Fabrizio Forché. Altri commenti sono di Carlo Bastasin: se Trichet può solo guadagnare tempo, l'Italia di fronte all'Europa, e di Mario Margiocco: l'America più che un contrario, più che un traino, rischia di diventare un freno. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche una lettera di Pierluigi Bersani, segretario del Partito Democratico, ne abbiamo già parlato nel GR. Pierluigi Bersani sottolinea la disponibilità appunto del partito al confronto e all'agire insieme. Gentile direttore, scrive il segretario del Partito Democratico, il mondo intero sta attraversando una crisi grave, sono coinvolti gli USA, l'Europa e anche i nuovi paesi industrializzati, non non possiamo dimenticare tuttavia che mai abbiamo, che noi abbiamo problemi strutturali con i quali l'Italia non fa i conti da troppo tempo. 5. Le proposte di Bersani: riforma della pubblica amministrazione, riforma fiscale, liberalizzazioni, politiche industriali, correzione della manovra economica. Le principali cose da fare, scrive Bersani, come si vede, richiedono tempo, credibilità e un clima e un convinto sforzo comune. Lo ripeto, al di là di qualche intervento tampone o tattico controllo del fabbisogno che pagheremo l'anno prossimo, interventi sul mercato per provare a sostenere i titoli e poco altro, tutto quello che si può fare richiede tempo e credibilità. Da dove possono venire dunque tempo e credibilità se non da una visibile svolta politica, cioè da una discontinuità che non venga percepita come gattopardesca? Se per salvare l'Italia bastasse attaccare la nostra ruota al cargo di oggi, lo faremmo. Pensiamo che non sia così. Quindi una richiesta di discontinuità politica, quel famoso passo indietro che Bersani ieri ha chiesto al governo, ma anche una disponibilità a trattare sui contenuti, a trattare sulle cose da fare per arrivare appunto a tamponare per ora la crisi, ma soprattutto a rilanciare la ripresa. Il Sole 24 Ore dedica 15 pagine di speciale mercati e poi anche uno speciale piazza affari per fare il punto sulle strategie e sui possibili modi da parte dei risparmiatori per cercare di contenere le perdite da una parte, ma soprattutto di salvaguardare i propri risparmi. Cioè, la situazione è certamente complessa. La stessa BCE ieri ha detto di essere intervenuta, ma poi ha precisato per acquistare titoli di Stato di Spagna e Portogallo, e questo ha complicato ancora di più le cose rispetto ai problemi sul tappeto, proprio perché si era pensato che la BCE fosse intervenuta anche su Spagna e Italia, e poi tecnicamente questo avrebbe voluto dire che Spagna e Italia sarebbero state molto più in difficoltà di quanto di fatto lo sono già. Parliamo anche degli altri commenti, velocemente, poi approfondiremo meglio. Shock sulle borse mondiali, Milano crolla, il titolo del Corriere della Sera, indice in titolo, stretta a picco, Piazza Affari cede il 5-16%, nuovo record per BTP e Bund, trisce l'Italia, acceleri sul risanamento. L'articolo di fondo sul Corriere della Sera è di Daniele Manca: poco serve prendersela con l'orologio rotto della borsa. E Daniele Manca si riferisce alle parole del Presidente del Consiglio che ieri aveva detto che le borse sono come un orologio rotto, indicano l'ora esatta solo due volte al giorno. E Daniele Manca osserva: l'economia e i mercati sono fatti anche di fiducia e aspettative, e quegli orologi misurano esattamente questo, misurano un futuro faticoso, arduo per l'economia mondiale e per il nostro paese in particolare. Si tratta di un difficilissimo passaggio per i paesi occidentali ed è per questo che dobbiamo fare in modo che le nostre imprese e i cittadini, che in questi mesi stanno dimostrando capacità di reazione e senso di responsabilità, superano il guado, ritrovandosi in un'Italia non più appesantita da inefficienze, sprechi e conti in disordine. Le cose da fare, conclude il suo commento editoriale del Corriere della Sera Daniele Manca, sono note. Sono state scritte più volte, a cominciare dall'anticipo del pareggio di bilancio fino ai preziosi consigli forniti dalla Banca d'Italia, e sono nel metodo indicato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. È necessario però che tutto questo avvenga rapidamente, quindi con un segnale della politica e del governo. Si riapre il Parlamento, si riconvochi il Consiglio dei Ministri, si dia prima di tutto al Paese il forte messaggio che l'Italia reagirà come ha già saputo fare in passato. Questo era Daniele Manca sul Corriere della Sera. Oggi c'è ancora una giornata, oggi è venerdì, le borse sono ancora aperte, eppure la politica italiana ieri sembrava quasi andare in ferie. Si è data appuntamento a settembre, si è data appuntamento dopo l'incontro sulle parti sociali per un approfondimento. Ci sono richieste di tenere aperte le camere, ci sono richieste del fatto che i ministri non vadano in vacanza. Qualcuno aveva già annunciato una vacanza di un mese in Polinesia, speriamo che siano annunci smentiti, che la politica torni a fare il suo dovere, perché la politica in questo momento è fondamentale, anche se in passato ha dato segni di incapacità. Torneremo sulla rassegna stampa tra poco, un attimo di informazioni pubblicitarie. In primo piano. Eccoci tornati con la rassegna stampa di oggi. Vi dicevo già nella prima parte, i titoli dei quotidiani sono tutti occupati a descrivere la giornata di ieri, un giorno da incubo per le borse, dice la stampa, bruciati altri 173 miliardi, indici in tilt, guasto tecnico e panico a Piazza Affari, il premier niente allarmi, la crisi non si aggraverà. Il Fatto Quotidiano, lui parla e crolla tutto, lui ovviamente è Berlusconi, che viene anche nel titolo del Riformista, chiamato il piazzista. E il Fatto Quotidiano, borsa a picco, Milano meno 5%, titoli svalutati, i mercati sfiduciano il governo, era inevitabile dopo l'inutile e dannoso discorso del premier alle Camere. L'Europa dice sbrigatevi, stangata in vista per Ferragosto. Il Secolo XIX, borse KO, il rinvio non paga, le parti sociali presentano al premier un testo in 6 punti, basta scorciatoie, agire in fretta. Ma Berlusconi rimanda tutto a settembre, scintille con Tremonti, la CGIL, siamo insoddisfatti. Due quotidiani sul fronte opposto, potremmo dire, Libero e Il Giornale, invece parlano di una crisi come di una crisi di carattere europeo, se non globale. Il Mondo fa crack, il titolo di Libero, i kamikaze della crisi, l'urto della speculazione manda KO tutte le borse, paghiamo l'atteggiamento irresponsabile di molti capi di governo della UE e della BCE, però in Italia ci toccano anche sinistra e CGIL. Berlusconi presenta alle parti sociali un piano di rilancio in 8 punti, ma elite sui tempi, e questo è Libero, appunto, che dà conto della crisi mettendola più sul fronte internazionale, così come fa Il Giornale. Borse a pezzi, euro in coma, Roma e Francoforte, Londra, New York, le piazze di tutto il mondo vanno a picco sotto i colpi della speculazione, è la dimostrazione che la credibilità del governo Berlusconi non c'entra, nel mirino c'è l'intero sistema Europa. Il premier incontra le parti sociali e detta l'agenda, 8 punti per il rilancio. E sul Giornale il commento, l'editoriale del vice direttore Nicola Porro, che pone appunto l'euro in primo piano e dice: non è la fine del mondo, ma la fine di un mondo, forse sì, quello del debito e della moneta unica senza guida politica. Ieri sui mercati c'erano solo venditori, che è apparentemente privo di senso, ma il gioco era vendere tutto sapendo che dopo poche ore si poteva ricomprare quel tutto con un buono sconto. Dall'inizio della settimana la borsa italiana ha perso il 13%, roba da brividi, dice Nicola Porro sul Giornale. La natura, diceva quel filosofo greco, fa di tutto per nascondersi, e così abbiamo fatto noi con i nostri debitucci. Oggi si sono finalmente mostrati nella loro dimensione e la via per risolverli è scritta, ma politicamente molto difficile. Per quanto riguarda noi europei vi è una strada con 2 tappe. La prima è quella di tamponare l'emergenza, spegnere il fuoco. Insomma, i 4 big dell'euro, Spagna, Italia, Francia e Germania, fanno l'80% del PIL europeo, devono mettersi d'accordo per una politica economica unitaria. E ancora Nicola Porro conclude il suo editoriale: devono, è molto difficile obbligare la BCE a emulare i cugini americani della Fed, interventi forti sui mercati del debito, insomma comprare titoli pubblici che oggi la speculazione getta nel cestino, è la prima tappa ma non basta, ci dobbiamo poi mettere in testa che sono finite le generazioni sulle quali possiamo caricare debiti, basta, stop, non ci sono più pasti gratis. Abbiamo un sistema di welfare che non regge più. Non possiamo, ad esempio, permetterci pensioni e tutele di un piccolo mondo che era fatto solo da noi. Quel mondo è diventato oggi molto più ampio e i nuovi entranti girano a velocità 6-7 volte la nostra. Si può anche decidere di mantenere la nostra tradizione, saremmo condannati a un veloce declino, per niente dorato. Era Nicola Porro, l'editoriale sul Giornale. Giornale di Alessandro Sallusti e ora anche ancora di Vittorio Feltri. Vittorio Feltri dedica un suo commento sempre sulla prima pagina alla polemica sulle auto blu, polemica innestata dalle dichiarazioni di Reguzzoni, del leghista Reguzzoni, che aveva criticato il Quirinale, il Presidente della Repubblica, per avere una dotazione di 40 automobili. Ieri c'è stata una replica dello stesso Quirinale dicendo che le automobili di tutto il parco del Quirinale non di 40 ma di 35, che non è granché in meno, ma soprattutto che il Presidente della Repubblica ha in dotazione di fatto solo 3 automobili che gli servono per ovviamente i suoi impegni ufficiali. Ora anche questo entra nelle critiche comunque di Vittorio Feltri, che dice appunto che la politica si fa travolgere appunto da una da una pattuglia di auto blu e critica anche lui in qualche modo i privilegiati con l'autista e conclude il suo pezzo: figuriamoci la gioia del popolo nell'apprendere che il presidente non è lo spendaccione dipinto dal droghista Bossiano. Cosa volete che siano 35 macchine per il colosso che si erge sul colle, tanto che lui ne usa solo 3, e le altre 32 a cosa servono? Questo lo spiegheranno in un'altra circostanza, altrimenti l'antipolitica si rafforza e la politica muore. Un po' di antipolitica da parte di Vittorio Feltri al Giornale. Torniamo al tema appunto delle borse. Sulla Stampa l'editoriale è di Bill Emmott, il titolo è L'imprenditore che non capisce l'azienda Italia, e ovviamente il riferimento al Presidente del Consiglio, imprenditore anche perché per ben due volte, sia l'altro ieri sia ieri, ha ricordato il fatto di avere delle aziende in borsa. Ieri addirittura ha detto: investirei i miei soldi delle mie aziende, anche se in quella fase stava svolgendo il ruolo di Presidente del Consiglio. E scrive Bill Emmott: i mercati si comportano come branchi di animali, corrono tutti nella stessa direzione rassicurandosi l'un l'altro. La tendenza occidentale è chiaramente cattiva: rallentamento della crescita, problemi crescenti di debito, politica disfunzionale in molti paesi, all'improvviso il branco è in fuga da questo. Una risposta è l'euro, è ironico in un certo senso. Quando fu lanciata la moneta unica nel 99, i suoi sostenitori dicevano che avrebbe avuto grandi effetti, sarebbe servito come strumento di pressione sui paesi membri perché liberalizzassero le loro economie per compensare la perdita di svalutazione della moneta come strumento politico, e avrebbe dato una disciplina ai mercati obbligazionari richiedendo tassi di interesse più elevati ai paesi a maggior rischio. Nulla di tutto questo, scrive Bill Emmott sulla Stampa, è accaduto durante i primi 10 anni di corso della moneta, ma ora questi effetti si stanno entrambi manifestando, è solo che stanno accadendo più improvvisamente e violentemente di quanto chiunque vorrebbe. E inoltre, aggiunge Bill Emmott, la pressione per la liberalizzazione e la disciplina dei mercati obbligazionari è rafforzata dall'esatta natura delle operazioni di soccorso che la Germania sta conducendo per la Grecia. Il vertice di emergenza del 21 luglio ha concordato su un nuovo salvataggio, ma anche sul fatto che il debito della Grecia deve essere ridotto, facendo sì che i creditori privati estendano la durata delle loro obbligazioni e accettino tassi di interesse più bassi. Vedendo questa proposta, conclude Bill Emmott, che non è ancora pienamente attuata, agli investitori viene naturale chiedersi: se dobbiamo sopportare questi fardelli per la Grecia, per chi altri dovremmo farlo in futuro? La risposta, naturalmente, è che chiunque abbia debiti di governo così alti da poter diventare insostenibili per i prossimi anni. In altre parole, l'Italia, perché l'unica cosa veramente solida è il livello elevato del debito del governo. E questo era appunto Bill Emmott. E sulla Stampa c'è anche un buongiorno, la classica rubrica di Massimo Grabellini, che è dedicata anch'essa alla crisi economica. Ho implorato un amico della redazione economica, scrive Grabellini, di spiegarmi che cosa sta succedendo. Hai presente Willy Coyote sull'orlo del precipizio, quando si aggrappa a una roccia che tra un attimo si sgretolerà? Ecco, Willy Coyote siamo noi. Non ho avuto il coraggio di chiedere chi è Beep Beep, ma sono invece tuffato tra le agenzie di stampa alla ricerca di qualcuno che mi rassicurasse sulla solidità della roccia. L'ufficio, allora, Massimo Grabellini dà alcuni punti. L'ufficio banalità della Casa Bianca: i mercati salgono e scendono. L'eurobanchiere Trichet, quello col carisma di una gelatina alla frutta: in Europa non c'è la decrescita, ma la decelerazione della crescita. Il Presidente del Consiglio, in una conferenza stampa: le azioni Mediaset sono solide, se avessi dei risparmi le investirei lì. Il Presidente di un ente pubblico: il governo invita i suoi associati, gli italiani, a comprare azioni di un'azienda privata di sua proprietà. Mi scuso per la ripetizione, ma è come con l'ipnosi, una volta uno non riesce a crederci. Il ministro della chiarezza Sacconi: di fronte a una giornata di tempesta dei mercati finanziari e immobiliari, l'Italia, nella sua convergente dimensione istituzionale, economica e sociale, vuole rispondere all'instabilità globale accompagnando il percorso di disciplina di bilancio già delineato con la maggiore crescita. Ultimo punto, la vicepresidente della Compagnia di San Paolo, Suor Giuliana. A questo punto non ci resta che pregare. L'unica vera una strategia, conclude Massimo Grabellini, mi sembra Suor Giuliana. Ecco, a questo punto, a parte le battute, a parte le analisi, indubbiamente siamo in una situazione in cui La convergente osservazione degli esperti è quella che qualcosa comunque bisogna fare. Siamo in una situazione difficile, siamo in una situazione in cui ovviamente la crisi non è solo italiana, ma l'Italia è uno dei temi, di fondo, è uno dei punti di debolezza in questa catena globale che sta appunto stringendo come una morsa le economie internazionali. E torniamo alle analisi politiche ed ecco interessante l'analisi del manifesto di Loris Campetti, un manifesto che continua ad essere un quotidiano comunista nella sua testata e che comunque non chiede, sembra forse per la prima volta, le dimissioni del governo, ma chiede appunto che lo stesso governo, magari unito con gli altri, faccia qualcosa. Ora, dice Loris Campetti sul manifesto, sarebbe irresponsabile, con la casa che brucia, aprire una crisi di governo. Piuttosto bisogna condizionare il governo, dettargli un'agenda più aggressiva in nome della crescita, accelerare lo smantellamento dello Stato sociale e dei diritti del lavoro usando il grimaldello del fisco su smantellare il contratto nazionale. A chiedere l'uscita di scena di Berlusconi sono rimasti sul fronte politico Bersani e su quello sociale Camusso, che in nome di un'alleanza salvifica aveva messo sul tavolo i sacrifici sociali e buttato dalla finestra patrimoniale Tobin Tax, salvo poi scoprire, e con lei Bersani, che l'unico soggetto forse di far saltare il banco non sono le opposizioni sociali e politiche, ma i mercati. Quindi in un certo senso l'alternativa, la difficile alternativa tra chiedere continuamente di far saltare il governo, ma oppure quella di cercare di condizionare fortemente il governo per far fare le riforme necessarie, indubbiamente coinvolge anche un'estrema sinistra che è sempre stata ovviamente molto anti-berlusconiana. Torneremo poi su questi temi, adesso ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. In primo piano. Eccoci ancora con i fatti del giorno, sono i quotidiani che vi dicevo parlano ormai unitariamente di questa giornata difficile di ieri, molto difficile. Oggi purtroppo si prospetta un'altra giornata molto pesante, la borsa di Tokyo sta perdendo il 3,66% sui timori dell'economia mondiale. Tra gli editoriali non posso non ricordare quello di Oscar Giannino, a cui faccio gli auguri di buone vacanze, poi della sua rubrica lo sostituirò anche oggi alle 9, oggi parleremo di pensioni. Oscar Giannino comunque ha scritto sul Messaggero un articolo di fondo, ora non c'è più tempo da perdere, e sotto al titolo grande Europa e USA le borse a picco, indici in tilt, Milano cede il 5,16%, la BCE Italia anticipi la manovra. E Giannino scrive, sono fatti e non opinioni, lo scatenarsi di questo crisi, un governo dovrebbe sapere che il suo compito non è continuare a dire che ha fatto tutto quello che doveva e che i mercati hanno torto. Chi dice questo si condanna al ridicolo, a essere travolto. Berlusconi è stato bastonato ieri dall'intera stampa mondiale per questa ragione, ed è una buona ragione, scrive Oscar Giannino. Ogni giorno, come ieri, in cui la capitalizzazione di banche e imprese italiane va a precipizio più in basso del 40% e oltre che ha perso all'inizio anno, è un giorno in cui per ognuno in Italia diventa più difficile finanziarsi e rispondere dei propri impegni con un patrimonio che cade a un terzo, un quarto o addirittura un quinto dei mezzi propri. Così proseguendo si arriva inevitabilmente alla svendita del paese. Per questo, scrive ancora Oscar Giannino, in tali circostanze eccezionali il governo dovrebbe avvertire di essere tenuto a un solo dovere, non sperare nell'insperabile, e cioè che i mercati smettano, ma riunire un consiglio dei ministri di emergenza in poche ore capace di dare ai mercati un segno che l'Italia vara misure straordinarie per rendere più credibile quel pareggio di bilancio del 2014 che oggi appare a tutti troppo ritardato e per di più con elezioni in mezzo. Bisogna farlo con misure che non colpiscano i trasferimenti pubblici attuali, cioè stipendi e pensioni, perché significherebbe aggravare la crisi. Dunque, per esempio, un energico intervento di innalzamento in 3-5 anni a 70 anni dell'età pensionabile, attualmente ci arriveremo nel 2050, che da solo significa un miglioramento a regime dei saldi intorno ai 40 miliardi di euro, e privatizzazioni per 4-5 punti di PIL nel triennio, ma a cominciare da subito, a fianco di meno tasse da subito. Questa è la proposta di Oscar Giannino nell'editoriale del Messaggero. E anche il Foglio, che pur mantiene un sostanziale equilibrio senza grandi toni allarmistici sul fronte della crisi, chiede appunto in un editoriale, nella pagina degli editoriali, di dare un vero segnale al mercato. Il premier Silvio Berlusconi, scrive Il Foglio, 2 giorni fa ha annunciato in Parlamento che il governo intende azzerare il fabbisogno nell'ultima parte dell'anno. L'ipotesi sarebbe quella di un intervento di cassa della portata di 14-15 miliardi per cancellare o rinviare impegni di spesa già fissati. Questo annuncio non va sottovalutato e implica che in termini di cassa, quindi il deficit del 2011, grazie al buon andamento delle entrate, all'efficace controllo della dinamica della spesa e a questa manovra, sarebbe solo il 2%. Una notizia che gli analisti non hanno ancora percepito, una manovra simile a quella di Carlo Azeglio Ciampi, scrive Il Foglio. Ma poi prosegue, naturalmente nel 2012 occorrerà trovare le risorse finanziarie con cui far fronte agli impegni di pagamento del 2011. A questo fine si dovrà ricorrere a misure aggiuntive per l'1% del PIL. E questa provvista la si potrà ottenere solo mediante privatizzazioni e alienazioni patrimoniali. Queste misure serviranno per anticipare il pareggio di bilancio assieme alla manovra di cassa. Ecco, quindi anche Il Foglio parla di una necessità di privatizzare, alienare patrimonio pubblico, vendere beni demaniali, cercare di migliorare la finanza, ma dando immediatamente dei segnali di volontà, e quelli che si aspettano oggi dalla politica. Ma non vorrei parlare solo di crisi finanziaria, solo di crisi economica, ci sono anche altri argomenti sui giornali. C'è il dramma degli immigrati ancora morti nel canale di Sicilia, ci sono altri approfondimenti sul fronte, notizie anche queste non troppo positive, sul dramma della fame, soprattutto in Somalia, nel Corno d'Africa. Ci sono i 4 italiani in Afghanistan feriti in un altro attentato. Bisogna appunto, sono notizie purtroppo rituali, non bisogna peraltro abituarsi anche alla ritualità delle notizie. Cerchiamo qualche altra notizia un po' fuori dal normale, la troviamo sulla Stampa. Addio a Venere, nonna d'Europa, nata nel XIX secolo a 114 anni, era la pensione più anziana d'Italia, la persona più anziana d'Italia di tutto il continente. 114 anni e 252 giorni, gli ultimi 25 in una casa di riposo, la più anziana d'Italia. È stata appunto questa scoperta da parte della Stampa di Venere Pizzinato, che era nella residenza di Santa Caterina da Verona. Ma insieme a questa notizia c'è una ricerca inglese che ci parla di vita centenaria per chiunque. Un paese di trisnonne, questo diventerà l'Inghilterra, ci metterà molto, più o meno 4 generazioni. Le bambine che nasceranno stamani o domani nel 2011 si legheranno al pianeta con un accanimento mai registrato nella storia. Il 33,7% di loro non chiuderà definitivamente gli occhi prima di un secolo, 100 anni tondi. Molte scavalcate la soglia cominceranno un altro giro, chissà quanto lungo. Avranno corpi rugosi, curvi, probabilmente bisognosi di cure, eppure quasi indistruttibili, irrimediabilmente a lunga conservazione. Anche i bambini seguiranno un percorso non troppo diverso. Il 26% potrà contare su una vita a 3 cifre, una possibilità che 80 anni fa era riservata solo al 2,5% dei maschi e al 5% delle femmine. Sarà un mondo rallentatore, pieno di badanti, di case di cura, di malattie, e salvo una rivoluzione radicale, di poveri. Le pensioni non basteranno più. Anche ritirandosi a 70 anni, succederà in Inghilterra nel 2020, bisognerà trovare le risorse per mantenersi per un terzo ulteriore dell'esistenza. Nelle condizioni attuali è assolutamente impossibile. A mettere la pietra trombale sull'idea di una vecchiaia serena è il ministro del lavoro, Jan Duncan Schmidt, incapace di nascondere il disagio suscitatogli dagli ultimi dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica. O cambiamo o affondiamo. Già oggi, con un'aspettativa di vita di 77 anni per gli uomini e di 81 per le donne, 14 milioni di cittadini britannici si trovano nella sgradevole prospettiva di avere una pensione non solo significativamente inferiore a quella dei propri genitori, ma soprattutto insufficiente a garantire un tramonto dignitoso. Lo strano regalo dell'elisir di lunga vita, aggrappati alla terra, soffrendo le pene dell'inferno. Ecco la ricerca inglese, una vita centenaria, ne dà notizia la Stampa, un tema che è comune comunque a tutti i paesi, un dato sicuramente positivo, l'allungamento della vita media, speriamo un allungamento che sia anche positivo sotto il profilo delle condizioni di vita, ma che comporta anche la necessità di scelte sociali, di scelte Che portino appunto a rendere sostenibili i conti pubblici e il finanziamento delle pensioni. Ma di questo, e questo era anche per lanciare 9 in punto, alle 9 parleremo di pensioni, della situazione italiana, di cosa si è fatto, di cosa si potrà fare appunto sul fronte del sistema previdenziale. Un altro paio di segnalazioni, ma è già Irene Zerbini che entra per annunciare le sue indagini, le sue inchieste. Tu non farti intimidire, continua a leggere i giornali. Abbiamo ancora poche cose, grazie. Su Avvenire, Avvenire già da qualche giorno parla di questi nuovi interventi che rischiano di bloccare molte piccole emittenti. Nel prossimo autunno rischiano di chiudere oltre 250 emittenti e 2600 posti di lavoro dopo la decisione del governo di tagliare frequenze solo tra quelle utilizzate dalle reti più piccole per destinarle alla telefonia. Ora anche i volti televisivi più popolari si mobilitano. Renzo Arbore e Carlo Conti raccontano le loro esperienze, un bene nazionale da difendere. Ci sono su Avvenire due interviste a Renzo Arbore, che dice un'idea folle oggi più che mai, e ricorda appunto come molte idee, molti giovani, molte realtà del mondo dello spettacolo siano proprio nate nelle piccole emittenti, nelle piccole comunità, e che siano importanti anche queste realtà per avere un'alternativa all'offerta generalista. Dice Renzo Arbore: l'offerta generalista è ripetitiva, soggiogata dall'auditor che fa guardare con sospetto la qualità. Solo in casi eccezionali auditor e qualità si sposano, e quelli che diventano eventi televisivi. I criteri commerciali incoraggiano la TV educativa. Io non dico che la televisione debba educare, ma per piacere nemmeno diseducare. Non si può continuare a fare i tecnici dell'ascolto, dei picchi e delle curve, senza cercare di contemperare le ragioni dei numeri con quelle dei contenuti. È una campagna, un colpo di spugna che sta passando un po' sotto silenzio, una campagna di cui l'Avvenire si è fatto carico in questi giorni, una campagna di civiltà da seguire, sicuramente continuerà. Grazie a Gianfranco Fabi, purtroppo il tempo stringe. Grazie a Zerbini e buon lavoro.